alle 7 non mi ripiglio, io me la prendo verso le 8 e mezza, le 9, sempre così. E poi risulta, me la faccio dopo, mi guardo un po' il televisore e poi quando viene l'ora che me la posso. Ehi, infatti, io se mangio più tardi poi devo aspettare più tardi a farmi l'insulina, me. È quello. Ehi, vabbè, che sei anziano, ti addormenti in fretta, tu. Ehi, infatti. Avanti, io. Ehi, fate che mi sto vestendo, che troppo esco. Cappaga, va bene. Fai bene. Faccio bene, sì. Sto lavoricchiando. Fine settimana me ne esco. Poi quando sarò vecchio, allora me ne sto a casa. Come i vecchietti. Non si va più da nessuna parte. Al massimo fare un giro, ma poi te ne rientri presto. Mica. Oh vabbè, comunque ho notato che ci sono persone grandi di età, se ne stanno fino alle 3 del mattino alle 4. Allucinante. Se ieri notte mi sono addormentato nel divano e alle 4 e mezza ho acceso il coso, il telefonino, sono entrato su internet, su TikTok, c'erano un bel gente, ma non è che non niente bene, tutta gente che non riesce a dormire. Ah, quello all'ordine del giorno già. Io ho spento subito, ho acceso, ho fatto un giro così e poi ho spento. Ma non vedo niente, ragazzine anche, giovani. Confermo di quello che dici. Ed era alle 4 e mezzo di mangiare, ma che sa che si svegliano questi? E io ho detto, adesso non mi addormento più, invece mi sono avuto l'addormito e mi sono alzato verso le 9 meno un quarto, così. Io sono rientrato alle 2, mi sa, 2 e mezza, non mi ricordo. Mi sono svegliato alle 6 e mezza, 7 meno un quarto, così, perché avevo appuntamento per farmi la macchina. E ieri c'era musica vicino a casa, in piazza della Meridiana, e hanno suonato fino a tardi. Io bastava che aprissi le finestre da come se fosse dentro casa. Certo, può sentire di a volo. Immagino. E stasera mi sa che c'è musica sassarese. A dove? Che sarà la Meridiana. Adesso vediamo. E una cosa che stanno facendo per un ragazzo che è morto, quelli del circolo. C'erano anche le bancarelle, la birra, eccetera, eccetera. Ah, ho capito, Adesso cose belle, dai. Ma su in via, ma dove c'è il circolo, dici già? Su. No, è proprio in piazza della Meridiana, proprio a fianco al muretto della chiesa, qui. Ah, ho capretto di vitello, ho capretto. Avanti Marco. Ehi, affatto, io mi sto bloccando, altro che caffè. Tutto stanco. Lo sai, me lo fa, quando io ascolto un dialogo, che sia la radio, FM, che sia qui, che sia la TV, c'è il parlato di persone che parlano, magari mi regolo il volume basso, mi concilia il sonno. Ti salviamo come sonnista. Così a scuola, alle lezioni, mamma mia, certe volte non riuscivo a tenere gli occhi aperti, me lo ricordo ancora, e la compagna di classe mi dava le gomitate, Marco, perché ti vede? Ah, quindi tu non ascoltavi la lezione? No, cioè, in certe materie proprio non me ne fregava niente, se lo facevi per, non dico dovere nemmeno. Poi vabbè, anche a me certe materie non piacevano, la storia non mi piaceva, la matematica, poi tutte le altre andavo bene, la storia matematica avevo la sufficienza ma non mi piaceva. Sì, poi a me c'è delle cose di, per esempio, il latino, quella roba là quando era la magistrale, non mi interessava a me. Mi interessa roba utile per tutti i giorni, che usi e sfrutti tutti i giorni, che ne sono queste menate Dante, Cole, Petrarca, le poesie, ma per carità. Beh, ma molte lingue sono derivate dal latino. Diciamo che adesso è una lingua morta il latino, non viene più usato. Il latino va bene se vuoi fare spocchia quando sei avvocato, lì in pretura, roba del genere, quando sei medico si usano molti termini latini. Ma adesso sentiamo parlare in latino e al baracchino o di persona. In chiesa, non lo sai la barzelletta in latino. No. Questo tenente ubriacone ci comprava il vino di quello forte, un giorno il sacrestano gli ha messo l'aceto al posto del vino. E quando si è bevuto col calice il vino ha cominciato a bruma est e il sacrestano bufalo come test. E sa che si ha l'aspetto il sacrestano di mezzo est. Già, non ho capito, è troppo brutto, c'è rumore, rimbomba e poi c'è cose del cane che abbaia. Il cane sta abbaiando perché ho scoperto dei petardi. Ho detto che praticamente questo prete era ubriacone, si comprava quel vino per fare la messa, quel vino forte. E un giorno il sacristano gli ha fatto uno scherzo, gli ha messo l'aceto al posto del vino. Quando il prete è andato col calice a bere il vino, ha cominciato a dire agrum est, e il sacristano bufalo come test. Il prete, il sacristiano aspetto, e il sacristano se mienzo est, lui è crudino. Cazzo, bufalo come un test, cos'è? Voi l'avete sentita quella cosa del vino? Da poco, non so, hanno premiato, sostituito, c'era questo vino che doveva essere sottoposto tipo a degustazione, eventuale premiazione, no? E l'hanno sostituito con un vino da 2 euro, tipo quelli di cartone, no? Ceppo rosso. E tutti, sai quando si gasano, anche in un film ho visto una scena del genere, praticamente hanno premiato un vino che era un vino tipo cartonato da 2 euro, credendo che fosse vino pregiato. Quindi che tutta una presa in giro alla fine. E il ceppo rosso hanno premiato. Dimmi. L'hanno fatto anche in un film, eh. Praticamente c'era, questi muratori stavano lavorando quasi all'esterno di questa sala dove facevano assaggiavano vini pregiatissimi, no? Tutta gente dell'alta società, e loro senza volerlo avevano rovesciato questo vino che doveva essere sottoposto a degustazione. Beh, cosa hanno fatto? Hanno preso quello in cartone, l'hanno travasato e durante la degustazione tutti, sai che si danno aria, sì, un sapore coso, note floreali, tutte menate, era il vino in cartone di muratori. Sommelier. E io invece l'ho fatto con l'acqua una volta, avevo un amico in greffa che era fissato con l'acqua umido minerale, e un giorno siamo andati a fare una ziminata in campagna e praticamente gli ho fatto lo scherzo, ho messo l'acqua con l'umido minerale in cartone e l'ho messa in una bottiglia di vetro, e poi ho preso l'acqua del pozzo e l'ho messa nel cartone, e lui ha cominciato a bere quest'acqua e gli ho detto: Auro, ma tu che differenza trovi tra l'acqua l'olio minerale e l'acqua normale? E l'acqua olio minerale si sente, era un po' malvista, l'acqua olio minerale si sente, è leggera, mentre la bomba dice, beh, poi si sente, è leggera, tutti ridendo, perché sapevano, io avevo fatto questo scherzo, lo sapevano tutti, ma per dire, la gente quando è fissata, andava in pizzeria e si prendeva la pizza con le uova, cazzo, era tutto strano. Sì, una cosa del genere l'avevano fatta al cliente di un bar che era fissato con l'aranciata Siete Fuentes, no? Chiedeva quella. Dice sì sì, un giorno gliel'hanno sostituita, no? Eccolo bevendo, chi c'ha intendi di Siete Fuentes? Invece c'era un'aranciata locale, capito? Da due cippi. Sì, perché a volte la fissazione. No, vabbè, io per dire, ho comprato il bagno schiuma l'altro giorno, l'ho preso da Italy. Cioè tu ne metti un litro e non esce la schiuma. Ho dovuto prendere quello pino silvestre che c'avevo e ho dovuto mettermi quello perché se è acqua. Ma no, che brutto il bagno schiuma che non fa schiuma, li odio quelli là, e vuol dire che tutto c'è, non c'è il principio attivo buono. Io uso il pino silvestre, però l'ho voluto provare, ma nemmeno a paragone. La differenza è che se metti il pino silvestre basta che ne metti un goccio e ti fa una schiuma allucinante, questo qua ne metti un litro e schiuma non te ne invade. Poi non lo so se deterga la pelle quanto l'altro, però a me piace vedere la schiuma, se no sembra un prodotto proprio inerte, capito? Sì, sembra acquarella, è liquido, capito? Un bel liquido. No, qua ogni tanto quando vedo il bagno schiuma liquido vuol dire che qualcuna l'ha allungato, capito? Quando comincia a scarseggiare, ci mette acqua. Ho detto, ma è inutile che metti acqua. E poi dice, dice sta finendo, io lo prendo nuovo. Vabbè, certo, che sia, a meno che sia la fine, per usare l'ultima goccia, io faccio entrare l'acqua dentro e poi me lo butto addosso. Sì, sì, bravo, esatto, puoi svuotare la bottiglietta. Che c'è sempre quello strato, generoso strato di cosa di fondo che rimane, invece ci metti l'acqua. E Natalia è andata a mangiare, Luca stava scendendo, chi altro c'è rimasto qua? Io già ci sono, mi sto ascoltando, se fate ping e pong, sono arrivate le pizze, adesso me la mangio. Ah, di pizza sei, buon appetito, io credo che stessi mangiando adesso, che stessi rientrando, cioè rientrando dopo aver mangiato, dai. E tu Marco, col pranzo come sei messo? Aspetta già che mi regolo il volume. Hai detto col pranzo come si è messo? L'hai fatto il pranzo? Sì, sì, sì, no, guarda, rispetto a una volta stiamo mangiando 2:30, certe volte 2, certe volte 2:30, 3, ma abbiamo molto guadagnato rispetto a una volta, era una cosa folle, cioè fuori dalla norma. Era tutto sfasato, dai. Vabbè, la sera invece, la sera si è mangiato qui. Beh, io sto tenendo quegli orari, però 10:30, 11, non prima perché fame non me ne viene, poi io sto sempre mangiando il gelatino in mezza serata, il caffè, tutte quelle porcate che mangio io, capito? Mangiare spazzatura. ma queste cose dovresti lasciarle perdere. È buono mangiare invece di prima, la sera, perché poi hai tempo di digerire bene. No, ma già digerisco tutto, già io potrei mangiare, che cosa ne so, peperonata ancora la notte e poi digerisco tutto. Quello anche io mangio i peperoni di notte, non mi fanno nulla, c'era una mia ex ragazza che quando mangiava i peperoni di notte stava male, infatti non ne ha più uno. Sì, è vero, molte, non molte, vabbè, certe persone sono molto delicate, basta che mangino o fuori orario oppure qualcosa di leggermente pesante che proprio stanno male. Vabbè, è una seccatura, però. Ma lei soffriva di gastrite, è sempre a bruciare di stomaco, poi perché dopo lavorava prima mangiava sempre la stessa roba. Quindi i vecchi volevano solo fagioli, patate e fagioli e patate, dovevano mangiare anche lì, capito? Perché lì non poteva uscire manco a farsi la spesa, la segregata lì. Fagioli e patate, ma dove lavorava? Perché? Lavorava da degli anziani, faceva la badante da degli anziani 24 ore su 24, mangiava lì tutto quanto, e l'hanno rovinato lo stomaco mangiando sempre la stessa roba. Poi quando è venuta a casa ha fatto una cura e cambiando la roba gli sta lì passando. Però sicuramente lo stomaco ha fine di mangiare le stesse cose e qui alla fine ha ceduto. Sì, poi queste case di cura magari dipende dalla casa, certi sono dei lager. Io mi ricordo una volta, forse dove c'è il tuo Luca, stavo entrando a chiedere qualcosa, non so per quale motivo, non me lo ricordo perché sono passati troppi anni. Io credo fosse ancora i residui dell'hotel o mezzo abbandonato. Ed è una finestra illuminata, vedo che c'erano questi anziani in questi letti, sembrava una specie di celle di carcere, e se non sbaglio l'anziana era legata, i polsi legati alle, come si chiama, quelle traverse laterali del letto per non cadere, ma stretto il cuore, non hai idea. Marco, quanto ne ho visto io, no, ma lei lavorava da un privato, e tra l'altro aveva anche un medicina, solo che era secco. Praticamente ci aveva a casa e li affittava a San Teodoro lì. Io guarda, ne ho visto certe di cose nelle case di cura, perché io tutte quelle case di cura che esistono facevo le consegne della roba da mangiare, quindi immagina. Ma sai, lì facendo le consegne vedi qualcosa, ma poi quegli orrori che scoprono periodicamente, che si prendono a schiaffi. Ma per carità, la testa al muro, uno sbattuta una volta, gli lasciano nelle loro feci, fa cose folli. Quella è una cosa molto delicata, non tutti sono adatti a, anche perché sai cos'è già, io pure ho imparato sulla mia pelle, certi anziani un po', mamma vabbè ancora ragiona, tutto è tranquilla tra virgolette. Però quando tu hai a che fare con una persona che proprio non ragiona, che fa casino tutto il giorno, devi avere o la pazienza di un santo, e se no fanno scempio. Ogni tanto hai visto denunce, così, maltrattamenti, vedi delle condizioni terrificanti, i letti tutti cagati, vabbè, non ne parliamo. E quando mi danno pure le pastiglie per farle addormentare. E sai cos'è? Quando uno ha la mente che non funziona, viene dai uno di sonnifero, tavolo, quello che è, non dorme. Allora si buriano, gliene danno due, quello non dorme, però poi gliene danno tre, poi superato una certa soglia, la dose letale e se ne vanno, non dico nel sonno, ma è brutto invecchiare, ma già, brutto. Non c'è mai di invecchiare quando invecchi insieme a un'altra persona e ti aiuti uno con l'altro. Brutto quando sei solo, che invecchi da solo è brutto perché non hai nessuno con cui parlare, non ti aiuti uno con l'altro, ecco, quello lì è brutto. Sì, lo so, però mamma mia, è un rischio adesso, a seconda di chi ti metti in casa, non si sa mai come va a finire, cosa fa, cosa non fa. Aveva ragione Alberto Sordi, che lui era rimasto scappolo a vita, mi pare. E vabbè, c'è una scelta di vita quello. E io perché non ho mai cercato la persona, quando non è andata più l'ho sicurata. Sparita all'orizzonte, rimandata, risperita al mittente. Sì. E vabbè, vuol dire che non era la persona giusta, dai. E infatti. Vedo solo che vuole accompagnarti. Guarda che è difficile trovare la persona giusta, veramente giusta, perché secondo me il 90% delle persone si accontentano, come dire, vabbè, meglio che niente, si accontentano, però non è magari la persona proprio adatta. Casino, io già non mi metto il problema. No, accontentarsi non è bello, Marco. No, io non sono così. Io non mi accontento. Chi si accontenta vuole, dice quello, non è nemmeno così. Perché se uno non è contento non vuole nemmeno. E io. Bien, che ora abbiamo fatto? Porca miseria, c'ho lo stereo che si è alternata, non so da dove iniziare. Sento un'alternata quando metti le fonti esterne, l'audio esterno, non col cavetto. Boh, a momenti c'è, a momenti non c'è, ma non c'è una costante. Boh, provo a staccare, a disossidare, ma che non c'è qualcosa interna allo stereo. Quello della macchina. Come? Quale? Quello della macchina. No, lo stereo della camera da letto. Che stereo c'hai? Boh, credo che sia un Sony. Un Sony, non sono manco la sigla. Quindi che le solite ammenate, no? Radio. CD e poi fonti esterne, che può essere chiavetta o cavetto. Giradischi no, non è tratto, troppa cura di rischi devi avere, devono essere puliti, se no è un macello qua. Io c'ho tutto, c'ho il piatto Sony, poi c'ho Panasonic, l'amplificatore, che fa anche da CD, ce ne stanno 5 CD, girano da soli, finiture inizia l'altro, e poi c'è anche mangiacassetti, tutto qua. Io ne ho uno, un kilowatt già di potenza, quello sì che è uno stereo. Come un kilowatt? 1000 watt. Ma di quelli di una volta? No, moderno è. No, non ce l'ho presente che va a passare, se vuoi dammi una foto. Però si sente, da qui a casa del vicino. A uno, quello di Adriano. E allora? L'unico spazio cartolino elettrico che combina la... Quando lo metti a uno, cazzo, si sente, ma questa musica limpida, cazzo. E ci intendi, mi furi in occhi, con un vacone da un cazzo. Figurati. E manovrerai tu, povera Adriano. Adriano è di fronte a me. Ne è uscita una con i capelli dritti una volta quando l'ha acceso. Cazzo, pure io c'ho la Mercedes, c'è uno che abita il mio palazzo che la parcheggia proprio a fianco alla mia. Cazzo, ho visto le casse, sono andato a casa del vicino, no? Meglio per me. Ho visto le casse camminando da sole. E che casse c'ha? Nelle case enormi sono, cazzo, ma stavano a giumare i gaggini che i minori che vi do sopra, perché si mettono a camminare da solo, a uno mi... Questo cazzo vuoi fare concerti o questa cosa? Ma è esagerato. Sì, alla fine in un condominio, cioè, io parlo di qua, cioè io ho preso questi stereo piccoletti da camera, perché tanto il condominio non è che più alzare più di tanto. Infatti qua vicino non lo può alzare, altrimenti vibrano i vetri delle finestre. Ah, sì, 400-500 watt. Sì, Gianni, ripeti prima che hai detto 500 watt. Ho detto di quelle casse, che poi se è vero quello che c'è scritto non lo so, di quelle casse che si illuminano, che canti, che c'è la radio, eccetera, eccetera. Loro mettono da 400 a 500 watt, però bisogna vedere se è veritiera la roba. Stasera mi sono ascoltato un po' di tutto, un po' di classica, un po' di discoteca, un po' di Doors, un po' di Redenagent e cos'altro, e anche Madonna, quelle video di Madonna. Io stavo ascoltando il Queen stamattina mentre facevo le pulizie, mi ascoltavo il Queen, che mai tramonterà. Ah, i Pink Floyd pure. Anche di America, io c'ho tutto, c'ho i dischi. No, io purtroppo i dischi poi io mi ero buriato, ho prestati e bruciati ovviamente, ho regalati, io avevo regalato dei dischi bootleg che erano dipinti, cioè c'era proprio il coso del gruppo sopra, che se ci penso a distanza di, era del 90 quel disco, più di uno è, secondo me valgono qualche migliaio di euro adesso a distanza di anni. Io invece il contrario, vado a comprarli nei mercatini dell'usato, trovo dischi nuovi mai usati, ancora con il nylon tutto quanto, li pago quello che c'è da pagare, se mi interessano ce li ho. E poi ho trovato la radio privata che avevo venduto dei dischi a questo negozio, che adesso non c'è più, via Nizza, e avevo comprato un bel po' di dischi. Dov'è il negozio di dischi? Via Nizza, quello che vendeva strumenti musicali, russo, non so se te lo ricordo. Russo? Che altezza? Giù quasi via Enzo, e rimaneva. Sì, cacchio, già, mi stai dicendo una cosa che a malapena ricordo, forse non la ricordo nemmeno. Se non me l'avessi detto non... Porca miseria, ma quanti anni sono passati? Un bel po' di anni. Mio nipote aveva comprato i piatti tecnici lì, ne aveva pagati anche poco, se aveva preso, allora, due piatti tecnici, il coso, come si chiama, mixer, le cuffie, tutto da DJ, l'avevo venduto tutto un DJ, e andavano bene, funzionavano bene. Sì, ma erano dischi particolari, musica, non so, underground, roba che non trovi nei negozi normali, perché io andavo sempre dai soliti, Grishenko, Regina, Ivierico Costa, oppure quel tipo con i capelli beat, con i capelli lunghi che c'era in piazzetta Ittiri, soprattutto per quanto riguarda i CD, era molto ben fornito all'epoca. Poi qualcosa in via Cavour, no, via Furizzano, come si chiama? Via Brigata Sassari lì, una queste viuzze che scende. C'era un negozio lo stesso di dischi all'epoca. All'epoca non so se esista più nemmeno. Grishenko. Anche quello è Grishenko. No, però non proprio via. È una traversa, o è via Turitana o è l'altra traversa, come si chiama? Di Sassari Vecchia, porca miseria, non mi vengono i nomi. Via Torre Tonda. No, Torre Tonda è più giù, prima era, vabbè, prendila per buona già. Turitana, la Marmara, boh, non mi ricordo più, chi ci va più da quelle parti poi? Infatti, io con la vita che non gira a Sassari. Cazzo, stavo dicendo, quando vado fuori, vado a Anghero, vado fuori la sera, il sabato. Sassari non sto più girando, sono andato in Piazza Torre una volta, cazzo, ho visto questa fiumana di gente, tutti mangiato, tutto cambiato, ci sono ristoranti, ci sono tutto cambiato, Piazza Torre è diventato un ristorante. Via Enrico Costa, Enrico Costa a sinistra c'era Regina, sì, quella signora un po' anziana, mi ricordo, sì. Marco, ma ti sto parlando di dischi già usati. Allora, qualcuno erano dischi di jukebox, che erano di canzoni che sono uscite da poco, che praticamente sono dischi di jukebox che li rimandano doppi, tripli a volte e se li vendono, se ne tengono uno e poi se li vendono, capito? E niente, c'era una copertina bianca senza titolo sopra, però pure nel disco c'è scritto di che cosa si tratta, quindi tu tenevi il disco fuori, vedevi che se ti interessava, e ne ho comprato parecchi di quelli lì, quelli dell'Orso, ti ricordi, no? La casa discografica dell'Orso, non ti pensi. Musiche anche recinti, faceva. Poi un giorno sono andato a comprarli, mi ha detto, mi si è allagata tutta la cantina dove c'è i dischi, vai, se ne trovi qualcuno te li do a metà prezzo, mi ha detto. Vabbè, che succede? Mi è parlato sopra. No, già, ho sentito silenzio, non so se dipende dalla mia radio o se non sei uscito tu alla fine. Boh, ho detto che compravo, sto uscendo? Sì. Che compravo praticamente dei dischi che usavano nei jukebox, quelli e anche le radio private, quelli che hanno la copertina bianca. Non hanno titoli nella copertina, ma hanno il titolo del disco, capito, con tutte le canzoni scritte, e di quelli ne ho preso diversi, praticamente so che li danno alle radio private eccetera per lanciarli, e magari ci sono anche canzoni recenti, capito. Solo che poi un giorno sono andata a comprarli, mi c'era allagata tutta la cantina, mi ha detto, se scendi, se trovi qualche disco che ti interessa, te lo prendi, te lo do a metà prezzo o anche di meno. Invece era tutto bagnato, casino, non ho preso più. No, fin lì l'ho sentito io. No, nella parte finale ho visto come una portante muzza. E non ho capito se è mancato l'audio qui. Boh, da Natale niente è sentito. La portante muzza, evidentemente già non ha preso bene, se non è uscito di radio. Ma non lo so, magari è così, eh. Ehi, vabbè, sì, comunque sì, praticamente ha svenduto il salvabile, dai, da quella cantina. Sì, ma non c'è una risolvere, si è allagato tutto quanto, è bagnato tutto. Ce l'aveva in terra, i dischi in terra, oddio. C'è qua le pedane, ma dentro delle cassette ha bagnato tutto. Vendeva anche strumenti musicali, stereo, amplificatori, tutte queste cose. E ricordate anche anni 70 le rivendite di giornalini usati? Vendo, cambio, scambio, tutto. Io poi sempre Provolino, Geppetto, Tiramolla, quelli dell'epoca, adesso non esistono più, non sanno ma cosa siano quei giornalini, i ragazzi di adesso. Natali, te lo ricordi quel negozio che c'era a fianco a Trucchetti, dove si compravano le cartucce per i razzetti, eccetera, eccetera, lì li vendevano i giornalini a seconda della... Io andavo a sbirciare verso quelli sozzi, quello è per gli adulti, allora chiudeva la tendina. Ah. capito, chiedevo la tendina, dice no, quello è per i grandi. Per i grandi, quindi sono mariachi. No, magari già ne compravano gli uomini, non ci dice, non ci fa, Lando, Fiorello, quelle trecciate lì. Lucrezia, poi c'era Messalina. No, a me piacevano, io li fregavo a una persona che non dico chi, li fregavo, me li leggevo prima, Zora, Vampira, Oltre Tomba, era tutto un mix di horror e sesso. Certo, se sei piccolo ti fa un certo effetto, ma non ricordo che quando trovavamo i giornali mi sfogliavamo di nascosto in mezzo alla strada con il piede per non farti vedere. Ma non solo, qua spesso c'erano edifici abbandonati, case abbandonate, no, che poi adesso non esistono più, e trovavi i giornali, anche non i fumetti, proprio quelli, e dicevi tutto il tempo di sfogliarli con calma, eccetera, ti facevi una cultura. Diciamo, l'ho diventato reaccesso da Driuli, se non lo sta abusando. Sì, mamma mia, stavo pensando ai baracchini, sono fermi da secco, tutti i soldi buttati, mazzi di baracchini tutti inerti, mazzi di antenne veicolari tutte buttate, mazzi di microfoni buttati, ma chi cacchio me l'ha fatto fare? La passione, Marco, la passione, quando uno ha la passione compra le cose, se non è la passione come i pesci adesso io, nell'acquario mi sono avanzati tre pesci che sono diventati enormi, grandi, e poi gli altri sono tutti morti. Adesso piano piano me lo sto ripristinando, me l'ho pulito l'altro giorno, ho fatto un bel po' di ore di lavoro e l'ho pulito tutto, motore, tutto quanto. Adesso piano piano ci ho messo due scalari e piano piano comincio a ripristinare. Sì, ma vedi, è passione fino a un certo punto, ma non ha senso comprare tanti baracchini, eppure quello è lo shopping compulsivo, capito? Tu vedi l'oggetto nuovo che non hai, lo devi possedere, e così è il meccanismo che frega a me, capito? Si chiama sindrome da shopping. Non è una cosa buona però, perché come va, ti bruci, cioè, se uno avesse uno stipendio, la famiglia, e si fa prendere la mano, rimani senza i soldi. Beh, quello lo si deve anche regolare, se non può farlo non lo fa. Io per dire, se mi devo comprare un apparecchio che costa, metto 50, 100 euro al mese da parte, quando c'ho il gruzzo lo prendo e me lo compro, però devo averli prima. Sì, quello sì, però è un meccanismo un po' come il giocatore di questi videopoker, no? Magari vinci una piccola somma, non devi continuare, devi puntare al rialzo, capito? Cioè, ne hai già uno e va che no, ne voglio un altro, ma quello è un nuovo uscito, no? C'ha delle funzioni che l'altro non ha, lo devo avere, capito? Aveva ragione mia moglie quando mi diceva, ma cosa ne prendi tanti, se tutti hanno la stessa funzione, cosa te ne fai di tanti? Basta uno o due al massimo, perché se ti serve più uno c'è l'altro, però due, proprio andando male. Sì, un po' come, non dico chi fa collezione, chi ha 10.000 orologi poi alla fine ne usano solo, perché gli altri, la batteria tanto si scarica, e tutti a lasciarli fermi un po' cosati. Natalino cosa dice? Non si pronuncia? Lo stavo seguendo, stavo facendo andare le ganasce. Ha la bocca piena, quanti bagni fa qui? Che pizza hai preso? Una capricciosa mi ho preso, prendevo sempre la 4 stagioni, ma non mi ha soddisfatto questa qui. Adesso col clima impazzito, col cambiamento climatico, fanno la 5 stagioni. Prendi la tonne cipolle e mi dirai per due. Proveremo. Io sono andato l'altro giorno a mangiarmi la pirata, Porto Torres. Ti ho pensato. A me piacevano sempre le cose a base di formaggi o salumi, tipo gorgonzola, speck, tutta roba molto saporita, leggera poi. Frutti di mare ti piacciono? No, la verità già, frutti di mare non mi fa impazzire, mi piacciono più le cose con i prodotti di terra sulla pizza. E già la musica stanno mettendo, la senti? Stanno provando. Ci sono anche la musica sassarese stasera. e tu attacchi al lineare, entra nel sistema audio e gli mandi al diavolo il coso, il concerto. Se vai di notte c'è da mezzanotte sul stadio. Non potevo vedere manco il televisore, lo sentivo sparato come quel cane si incazzava, perché quando loro sentono amplificata ancora di più di quello che è, capito? Lo sentono, mi pare, 60 volte in più di noi, immaginati, hanno udito il cane allucinante, e gli abbagliava, capito? E quindi fa fare casino anche al cane, che di solito non abbaglia mai se non c'è motivo, ma quando ci sono rumori così gli dava fastidio. Sì, e mezzanotte anche è poco, qua mi ricordo che non so se fossero feste private, ma una volta fino alle 3 di notte, quasi 3 e mezza, cantando, chitarre, non era proprio attaccato a me, però non dico io, cioè lo sentivo io che ero a 50 metri, no 100 metri, quant'è? Boh, non lo so. No Marco, non possono adesso. Adesso Massimo si da mezzanotte e poi devono chiudere, ce li chiamano i vigili, li mettono la multa. No già, feste private, tipo su terrazze, non è locale pubblico. E poi lo sai che hanno, credo che abbiano depenalizzato là il disturbo della quiete pubblica, cioè non intervengono più se chiami con una chiamata generica. E adesso è su denuncia del disturbato. Capito? Così sapevo io. Quella è la scusa di chi non vuole fare niente, capito? Per scaricarsi le responsabilità, una rogna in meno. Così sono cavoli dell'eventuale vicino che deve denunciare, poi quando denunci che ci mette il nome. Cioè, quelli dicono così, si vendicano, eccetera, sgarbi, eccetera. Bello, bello, lo Stato italiano sempre meglio sta facendo. Sì, è così Marco, è sicuro così. Perché una volta io alle 4 di mattina ho chiamato e mi hanno detto sì, dovete mettervi d'accordo tutti i condomini e fare la denuncia. Cazzo, sono tutti venuti qua, c'era alle 4 di mattina che fanno casino con musica, voci, che cazzo, non si può riposare la notte. Sì, alle 4 di mattina qua c'è casino, sempre, specialmente d'estate. Sì, è vero, è vero. Comunque si stanno depenalizzando certi reati, eliminandoli, non so, come dire che lo Stato se ne lava le mani, se la vede cittadino, che ce ne frega a noi. Loro basta che facciano le loro inchieste, che tornino utile per medaglie, cose, promozioni, capito? Ma non ci sentiamo più tutelati, ma tu lo sai cosa mi è successo l'altro giorno? Cosa è successo? Allora, ero con il cane e ho visto questa macchina, certo questo rumoraccio, boom! Cazzo, guarda, si sono sbattute due macchine, una stava continuando ad andare verso il muro e stava per sbattersi contro il muro, ho pensato che fosse una persona che stesse male. E quindi mi sono fermato, dietro c'erano i vigili urbani e gli hanno intimato di farci fermi, e questo qui che accelerava a manettone. Io mi sono fermato, si gira questo vigile da me e mi fa: ne serve qualcosa a me? E ho detto: a me no, e a lui qualche cosa gli serve. No, stavo pensando che servisse qualcosa, anch'io stavo pensando la stessa cosa, gli ho detto. Per carità, faccia di cartone, cavolo. Vabbè, da quando sono polizia locale si stanno alzando molto, capito? Si stanno un po' alzando un po' troppo, sempre i vigili urbani restano. Infatti dobbiamo mettere multe e basta. Da quando abbiamo dato questa autorità di polizia stanno esagerando, capito? Perché non stavo facendo nulla, io mi sono fermato perché avendo fatto 17 anni di servizio ambulanza ho pensato che fosse qualcuno che avesse avuto un malessere e mi sono fermato per quello, non per altro, perché se c'era bisogno di qualche cosa sarei potuto intervenire. Però loro, non sapendo le cose, mi hanno rotto le palle, capito? Senza fare nulla, io ero col cane fermo guardando, non ho fatto nulla, non mi stavo né intralciando, niente. Perché perché non lo vanno a fare al corso Vittorio Emanuele lì con i nigeriani a vedere come ne escono col culo rotto? Sì, ma io non ce l'ho contro di loro, mettiamoci in chiaro le cose, però un onesto cittadino che si ferma per dare una mano, perché non mi sono fermato né per curiosare né per niente, mi sono fermato solo esclusivamente perché ho visto quello che andava verso il muro e loro mi hanno intimato si fermi a voce alta. Questo qua gli ha detto adesso fa il palloncino, era ubriaco, capito, era un tipo anziano, aveva detto no guarda, è un mio punto, glielo sto dicendo, palloncino non me lo devo fare io. Gli ha detto no, non lei fa il palloncino, se li rifiuta, se si rifiuta lo dobbiamo portare all'ospedale e fargli fare le analisi. E lui ha detto sì, lui rifiuta, la deve venire con l'ospedale, io non vengo da nessuna parte. Se ne è scelto dalla macchina, non se ne voleva scendere. E lì poi ingrandisce la persona, facendo così ingrandisce la cosa, perché poi c'è la resistenza pubblica ufficiale, se non voleva temperare o scendere dalla macchina, capito? È un casino, poi gli fanno di peggio. E comunque se uno beve non si deve mettere alla guida, uno poteva ammazzare un cristiano, anche un musulmano. Quello dell'altra macchina ha detto che l'ha suonato due volte, che l'ha visto andando all'incontro, l'ha suonato e boom, è circuito proprio davanti ai miei occhi, capito? Sicuramente la pattuglia stava passando lì per caso, era dietro, capito? Non penso che l'abbiano chiamata così, cioè, in fretta, che se succederà per successo un incidente. Mamma mia. Natalino, è finito di mangià. È un'ora che sto ascoltando il vostro ping pong. Porca di uno. È colpa di Gianni. 6 minuti fa, si dice. È colpa di Gianni. Zitto! Questo cane mi dà fastidio. Stavolta mi ha detto che c'è il boccone in bocca. Io cosa ne so che si mangia il giorno? Basta avvisare e dire guarda che ho finito di mangiare, sto rientrando. Sono a Parigi, da chi le hai prese per curiosità e come sono? Ma d'accordo, da Savelli le ho prese. Dio santo che ha voluto che sia lì. No, dico Natalino in camera. Ogni passaggio c'è il cane che abbaia, concetta voci, o la televisione a manetta. Ah, che movimento! Io le prendo sotto casa, sono buonissime. Anche con l'altare le prendo sotto casa. Solo che sino a giovedì le fanno, il venerdì, il sabato non le fanno, la domenica sono chiusi. Per cui da lunedì comincia da lunedì a giovedì. E cosa fanno gli altri giorni? Ma fa tipo panini? Allora, le pizzette al taglio le fanno da lunedì a giovedì, poi fanno panini, fanno le pizze grandi, le pizze piccole, rotonde, eccetera, però quelle al taglio le fanno solo da lunedì a giovedì. No, scusa già, credevo le tonde credevo, poi c'erano quelle al taglio io. E qua una volta abbiamo fatto una pizzata che era arrivata mio cugino dall'Irlanda, si è occupato lui di prendere le pizze, l'ha presa da un negozio che non nominerò, però francamente a me non è piaciuta, nemmeno a mamma è piaciuta, cioè non aveva niente proprio di appetibile, che dici caspita che è buona, nella pasta, nell'impasto, nel condimento, nella mozzarella, proprio mangiata per dovere. Ma dove le prese? Dove siamo andati noi quella volta a mangiare le pizze? No, non so dove. Aspetta, le ha prese, no, è un negozio da asporto, diciamo, da asporto, però non ci ho trovato niente di. Mamma l'ha anche lasciata. Ce la siamo portata a casa, però non eravamo pizzate in come dire, seduti, l'abbiamo fatta a casa della mia zia, capito? Nella casa di su. Ho capito, sì. Vabbè, non sono tutti che sono bravi, ma questo qui è bravo, è un ragazzo giovanissimo, ma le fa benissimo le pizze, le fa molto buone. Le pizze al taglio sono croccanti, ti arrivano a casa caldecate perché ce l'ho sotto, anzi, molte volte scendo io me la prendo io. E mi pare che ce l'hai a quanti metri? 20 metri? Quant'è? faccio? Uscendo dal portone e entrando nella pizzeria. Ah, è a Voglia, è a Voglia, vicinissimo. Allora c'è il portone, esattamente. L'agenzia funebre e la pizzeria. Allegria. Sì. Procarità. Quindi vabbè, sempre. Tanto devono lavorare anche loro, anzi loro sono quelli che lavorano di più in tutto. Ma si erano sentite leggende metropolitane, magari leggende, che a Napoli per risparmiare usavano legno di bare riciclato per il forno della pizzeria, per carità. Cosa? Legno di? Legno di bare, bare riciclate, trafugate. Mamma mia, progaridale, legno bianco. No, magari è leggenda, sai, però conoscendo i napoletani non mi meraviglierei. Questa Palermo, per carità di Dio, non vorrei visto quella camera mortuaria, tutti gli squami interi, tutte le bare abbandonate con la polvere sopra, per carità, tutte una sopra l'altra. Ma dove? In Sicilia, a Palermo. Oh, mamma mia. Per carità. E questa ragazza ha fatto il filmato, ha detto mio padre, guardate come è trattato mio padre, praticamente non l'hanno ancora seppellito, stavo aspettando che lo seppelliscano ancora, già c'è quasi un mese qua, e tutto c'era, tutti gli squami interi di certe bare erano tutte quante già vecchie, capito, già con la polvere sopra. E sono tutti accatastati, trattati peggio delle bestie adesso. Sì, non hanno rispetto manco per i morti. D'altronde manco i vivi ci rispettano, figurati i morti. Va. E ci sono quelli che si fanno mettere nel forno e via, non ci pensano più. Sì, sì, io l'ho detto, se crepo prematuramente o quando creperò, insomma. Cremazione, è inutile avere spazio sprecato, cremazione. O le ceneri le spargete dove volete voi, in mare, in montagna, nel cesso, dove volete voi. No, le ceneri si tengono in casa del defunto, si tengono dentro casa, si mettono in esposizione su qualche mobile e cose. Sì, lo so, ma non solo, io ho sentito anche che se devi fare il cambio di residenza, mille permessi, devono sapere in ogni momento dove sono i resti del che poi è cenere, cioè non lo puoi identificare nemmeno dal DNA perché è cenere, capito? E tutta burocrazia, poi a pagare. Sì Marco, ma tu hai delle grosse pretese, perché adesso per farti cremare non sei soldi che ci vogliono, non è possibile. No, usiamo il forno della cucina già, tipo agnello. Gianni, sono riuscito a rinnovare il porto d'armi. Io so di gente che ha cremato e ce l'ha in casa. Ehi, adesso Natali, avete parlato in due, adesso ti rilancio. Sì, sì, non solo, ma non le puoi spargere dove vuoi tu, come si vede nei film. Qua tutto divietato, tutto divieti. Oppure devi chiedere permessi, pagare grosse somme. Hanno rotto anche questi regolamenti. Natali, ho sentito il porto d'armi, è rinnovato? Sì, è in questura. Me ne ha pigliato. È in questura. Ho tutto pronto, ho fatto tutto. Adesso mi danno il porto d'armi nuovo. E lì c'hai il bunker. Così cioè, mi operano, vado attorno a farmi due tiri. Ma è cartaceo sempre il porto d'armi o anche quello l'hanno ridotto a una specie di carta di credito? No, cartaceo è plastificato, però è cartaceo. E il passaporto cartaceo sempre, sì? Sì, sì, però dice che adesso è uscito il passaporto elettronico, non so come funzioni il nuovo passaporto che hanno fatto, perché io non ne ho passaporto, quindi no, non ti posso dare delucidazioni in merito. So che è uscito quello elettronico. Io non ne sto andando, là è già tardi, devo portare giù il carro, adesso lo dimenticato. Dai, vi saluto, mi ha fatto piacere, fatemi sentire spesso, eccetera. Dai. Tanto io se non accettavo l'accanto, poi accendo la parete, non è che la sera la faccio sempre così. Sì, già. Dai, buona passeggiata col cane, è vero, sta facendo un po' tardi. E sentiamo quando capita. Oggi Natale miracolo, una modulata di quanto, un'oretta e mezza ci siamo, due ore. Sì, sono già le 8:10. La faccio io donna. E infatti io ti miracolo avvenuto. Poi stamattina mi ho pensato, mi avevo fatto, ordinato le staffe per attaccare i monitor al muro, no? Quelle che puoi mettere dove vuoi i monitor. E mi ho attaccato le staffe per i monitor. Eia. Ma per il computer, sì, o per il televisore? No, per i monitor del computer, siccome ne ho due computer qua, uno di mia moglie e uno mio, e li ho attaccati in alto, almeno non mi rompono le scatole in mezzo ai piedi. Ah, vabbè, tanto poi il computer, sai, è più piccolo, il monitor è più leggero, là, non è roba che pesa. Va bene. Quindi già è andato. Comunque vedi, siamo due gatti, tre gatti stasera, ma poi vabbè, è entrato Luca a salutare, è entrato l'autore a salutare, però sempre c'è poco mordente, Natale. La gente sì, si dedica all'altro ovviamente. È un hobby un po' sul viale del tramonto, dai. Sì, già entreranno quando non possono uscire per via del tempo, e quindi penso che già entreranno, là. Adesso perché è periodo di ferie, là. C'è sempre una scusa. In estate perché vanno al mare, vanno fuori, in inverno perché vanno ai grandi magazzini, vanno alla spesa di Natale. A proposito, l'altro giorno ho fatto dello spin, anche una settimana fa, piena, mi giro e vedo i panettoni e i pandori. Che cavolo di giorno siamo? Cioè, li hanno messi tre mesi prima di Natale, all'anima, non dico io. È il Natale anticipato, che... A meno che non li abbiano messi per Halloween, che sarà fine mese, prossimo mese, no? Sai, per far mangiare cose buone, tra virgolette, ai bambini, così, sai, il pandoro, il panettone piace sempre. E infatti io già non ne posso mangiare, quindi al massimo una fetta ne mangia a Natale. Sì, poi queste feste di importazione, no? Halloween, non siamo negli Stati Uniti, dai. E poi è più brutto, mi hai detto in inglese, lo sai, da noi è dolcetto scherzetto, un po' già carino, e lì è trick or treat. Trick non so se sia, non, però treat vuol dire minaccia, cioè come dire, o dolcetto o minaccia, cacchio. E negli Stati Uniti sono i fidiati, la cosa che può cambiare tutto. Sì, guarda, certi festeggerebbero anche il 4 luglio, se potessero, qua in Italia, capito? Sì, tocca fare il tacchino, queste cose, ma... Vabbè, il commercio, quello è per vendere, i commercianti lo fanno per vendere. Vabbè, è un'opinione mia quella, dai. Noi due siamo alla ricerca del... alla benemera, oiui. Che cosa vuoi che ti dica, Marco? Andiamo. Hanno americanizzato tutto qua. Guarda in Francia a vedere se ci dicono una parola in inglese. Col cavolo! E poco sono conservatori. Sì, sì, francese con il ex nazionalista. Con lui o parli francese o parli francese. Capito? Vabbè. Anche loro hanno ragione, una grande nazione ha colonizzato, fa parte dei grandi colonizzatori come Spagna, Francia, Inghilterra, insomma, noi cosa abbiamo colonizzato? Per carità. Ma qua hanno rovinato l'italiano, queste parole inglesi ci sono in mezzo, ma che cavolo, va a vedere la ringaduia, boh. fa se ti dicessero da oggi a domani, da oggi in poi come tempi di Mussolini, niente termini esteri, certe cose ti viene, se c'è il computer come lo chiami, l'elaboratore elettronico, il calcolatore elettronico, è brutto. Lo so, però è meglio, io non lo so, l'hanno rovinato l'italiano, cos'è weekend, basta dire fine settimana, non lo so io. Il lunch, il brunch, non ho capito cos'è anche questo brunch, se una merenda, una colazione, devo controllare. Tutta roba di importazione americana, via. Vabbè, poi anche questo partito preso pro Ucraina, tutti, proprio alla cieca, senza manco sapere i motivi, molti. Non do naturalmente ragione alla Russia, ma la ragione sta sempre nel mezzo, Natalia. Quindi questo essere, questi si vanno in giro con i colori blu e giallo, no, della cosa. Questo partito preso, io so tante cose, non riesco a capirlo. Sì, vabbè, però alla Russia chi è che se la stava cagando? Nessuno. Noi non avevamo nessuna intenzione, noi europei, dico, di attaccare la Russia. Loro l'hanno presa in quel senso lì. Sì, vabbè. Il bello è che in Italia siamo sempre con le pezze al sedere, per la sanità, per la scuola, però quando si tratta di finanziare e guardare gli altri, sì, i soldi si trovano magicamente, compaiono dal nulla, capito? A mandare aerei, carri armati, contingenti, armi, tutto. E infatti, se avessero pensato a risanare la sanità, a aumentare gli stipendi a quella povera gente che prende 4 euro all'ora. Io mi ricordo quando lavoravo al comune ne prendevo 7 di euro. Sono arrivato pure a pigliare 1800 euro io. Però c'è gente che piglia 4 euro all'ora, sono stipendi da fame proprio. Ah, aspetta, parentesi, a parte che mi pare che l'Italia abbia mandato F-16 in Ucraina, F-16, in roba vecchia degli anni 80, magari non funzionanti. E quando vanno a decollare esplodono. Ah, immagino anche obsoleti come strumentazione, che ne so, come tecnologie, cioè. La mondezza è come quando mandiamo i farmaci scaduti, l'Europa manda i farmaci scaduti in Africa per curare i bambini africani, sì, con i farmaci scaduti. E quello c'ha ragione, ma certo non gli puoi mandare un Eurofighter oppure un F-35, no? E non so nemmeno se l'Ucraina abbia i piloti addestrati a usare veicoli molto moderni. Hai visto quei caccia russi, il Sukhoi, come si chiama? Fa paura quando arriva. Fa anche un suono particolare, credo però che sia una sirena inserita da loro. Sembrano quelle astronavi dei Filoni della serie Battlestar Galactica. Fa impressione. Comunque già dall'F-104 bisognava andare a addestrarsi in Texas, in America, per poter pilotare quegli aerei. Già il casco di un F-35 costa un'enormità. Solo il casco, figurati l'aereo. Ma si dice, a proposito di aerei, mi sarei voluto guardare un film che non ho mai guardato, Maverick. O qualcuno dice che sia bello, qualcuno no, punti di vista, Maverick, quello con Tom Cruise, dovrebbe essere la continuazione di Top Gun, che lui è più anziano, è più grande, anzi anziano è brutto da dire. E Top Gun è il film, dai, io già l'ho visto. Ma Top Gun è degli anni 80, dove c'era quella tizia bionda di cui non ricordo più il nome nemmeno, e questo è fatto da pochissimo. Mia moglie non vuole capire che non capisco un cazzo io se tiene il televisore acceso, no? Ma infatti prima, perché l'ho detto, perché volte quando parli o si sente il cane abbaiare o con certe voci o il televisore alto, certe volte lì, se uno vuole, se tu volessi avere un attimo di pace, lì non si può. Se sto rinunciando ai diretti perché non posso parlare, a chi vuole Lucani Gambaggia o televisore acceso. Quando c'è lì è una cosa impossibile. Metti il bavaglio a tutti, il bavaglio al cane, la bugerola, il concetto è il bavaglio, l'attivo stacchi la spina e mi pare che mi piglio un bel dunepio, mi dici di voi e mi cuna veda adesso Franco che me lo deve portare il nervo, almeno ogni elettro due colpi io la caccia pensa, ma cos'è il nervo di bue, mamma mia, alla senti parlando a questa meggera. Piano, guarda che ti avvelena il cibo, piano piano, mi con la stricnina, manco te ne accorgi. Ma silenzio, mi qua c'è il mattarello che sta volando. Mi vuole picchiare questa col mattarello. È cattiva, non te la guardare così. Piccola è, ma Marco, se mi succede qualcosa è lì. Fai da testimone, falla arrestare subito. Che parlare?